You're listening to Rock FM. Eccoli gli Aerosmith, periodo anni 90, con la mitica Falling in Love is Our on the Knees. Allora, come annunciato in collegamento con Rock FM, parliamo di Telefilm Festival con Leo Damerini, uno degli organizzatori del Telefilm Festival. Buongiorno Leo, benvenuto a Rock FM. Grazie mille, la mia radio preferita, devo dire. Grande, grazie Leo. Allora, parliamo di questa nuova edizione del Telefilm Festival, un festival che in realtà nasce qualche tempo fa, giusto? Beh sì, nasce 6 anni fa dalle menti pazze di 2 ideatori e che poi nel corso degli anni è diventata un qualcosa di più importante. Quest'anno abbiamo in piazzetta Liberty, come tu sai e come i teleascoltatori di Rock FM sanno, con un grandissimo evento rock. Bene, bene, perché quest'anno comunque uno dei temi è anche il rock, cioè è anche il rock and roll all'interno del festival. Sì, giusto? Diciamo sesso, teen cult e rock and roll è un po' il tema di quest'anno. Il sesso, perché ci sono tantissime produzioni telefilmiche dedicate al sesso, tra cui quest'anteprima inglese Secret Diary of a Call Girl, di prostituta d'alto bordo inglese, insomma, che si dedica al sesso a pagamento, nonostante in realtà non abbia bisogno di soldi fondamentalmente. E poi i grandi serial giovani, tra cui questo nuovo Gossip Girl, che è il telefilm della generazione dei blogger, sì. E poi i grandi concerti in piazza, tra cui naturalmente la Rock FM All Star Band, i Baustelle, gli Statuto, certo. Raffaella Di Stefano, insomma dei nomi anche per allargarci un po', insomma, poi per vedere anche il filone tra telefilm e musica, che come sai è sempre più forte. Certo, in effetti se ne parlava anche ieri nella conferenza di presentazione invece del libro, del quale se vuoi possiamo anche parlare, nel quale si notava quanto in realtà ultimamente musica e telefilm, soprattutto rock magari e telefilm, stanno iniziando a entrare in connessione, no? Sì, sì, Baustelle che dedicano la canzone a Colombo, i Subsonica che certo. Si prestano per Lost, che altre connection che secondo me sono sempre più evidenti e quindi evidentemente crea anche dei rimandi abbastanza interessanti tra vari generi, musica, telefilm, arte, cinema, insomma, quindi è certo. Sempre più bello, insomma. Certo, certo. A questo proposito c'è anche, oltre allo storico dizionario dei telefilm, ci sono anche appuntamenti in libreria dove parlare di telefilm, giusto? Con anche una nuova pubblicazione. Sì, La vita è un telefilm, questa nuova enciclopedia è uscita proprio in questi giorni, 2020 frasi tratte dai telefilm di tutti i tempi, dai personaggi più famosi, ma anche le persone che sono passate magari proprio di passaggio nei telefilm, perché appunto La vita è un telefilm, quindi anche le persone che magari incontriamo nella vita solo per qualche giorno magari ci dicono qualcosa di interessante, quindi sono tutte frasi tratte da Fonzi ai Soprano, da Mork fino al Dottor House, tutte quelle che magari ci possono, come dire, raccontare i telefilm non solo come schede, no? Tipo il dizionario, ma anche per quello che dicono i personaggi. Usando anche citazioni musicali, tra l'altro. Assolutamente, assolutamente. Senti, il Telefilm Festival inaugura oggi, giusto? Inaugura oggi con un workshop dedicato agli studenti e agli addetti ai lavori, la grande apertura è domani con questo evento che già tutti gli ascoltatori di Rock FM sanno, insomma, che a cui mettiamo tantissimo. Va bene, ok, quindi ne approfittiamo, ricordiamo ancora una volta per ricordare che venerdì sera sul palco esterno del Telefilm Festival, che ricordiamo si tiene al Cinema Apollo, giusto? Esatto, al Cinema Apollo. Al Cinema Apollo di Milano, ci saranno appunto diversi concerti, tra i quali quello della nostra Rock FM All Stars Band a partire dalle 21 circa con il nostro show in full effect. Senti, invece per chi viene al Telefilm Festival cosa si deve aspettare? Come funziona più o meno, come funzionano le proiezioni durante il giorno? Guarda, le proiezioni iniziano dalla mattina fino a notte inoltrata, sabato abbiamo una maratona dei visitors fino all'alba, no, tipo una Woodstock dei visitors praticamente, in cui okay. Prima magari si vede un concerto degli Statute e poi dopo ci si proietta in sala fino alla mattina, dove ci saranno cappuccino e brioche fino all'esaurimento, insomma. Fantastico, bene. Quindi, insomma, telefilm sia dei più recenti, sia, diciamo, di quelli storici, insomma. Sì, assolutamente, cioè la colleganza è sempre quella, cioè telefilm vecchi e nuovi, per esempio abbiamo la nuova versione della Bionic Woman e diamo invece la prima puntata, quella storica degli anni 70, quella girata praticamente a rallentatore rispetto a quello che sono i telefilm di oggi, che certo. Però fa sempre un certo effetto. Certo, no? Certo. Gran topa la donna bionica odierna, no? Sì, ma anche quella vecchia, secondo me. Ai tempi, secondo me, non era affatto male. Certo, senz'altro. Va bene, Leo, c'è qualcosa che vogliamo ancora aggiungere sul Telefilm Festival? Perché domani vi vogliamo belli carichi, perché qua noi vogliamo far esplodere praticamente il Duomo da okay. Quei vostri volumi. Benissimo, guarda, sui volumi non c'è problema, noi andremo a 10 senza problemi. Bravi. Senti, Leo, io ti so anche grande appassionato di musica, quindi io ci siamo un po' preparati questa prossima canzone. Ti so appassionato di Black Rose. Molto, molto, li seguo dall'inizio, insomma, quindi sono uno dei miei gruppi preferiti. Benissimo, allora chiudiamo con Remedy, io naturalmente ti saluto, ti faccio l'in bocca al lupo per questa nuova edizione del festival e ci vediamo venerdì in Piazza Liberty. Va bene, crepi il lupo ma mai il rock. Ok, grazie. Grazie Leo, a presto. Okay. Grazie mille, ciao, a presto a tutti gli ascoltatori. Couldn't keep from coming. another shot of courage. Wonder why the backwards never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Eccoli qua, gli U2, U2. Nome, band dal nome col numero che non è difficile da pronunciare. Questa era Desire, naturalmente, la voce è quella di Edo Rossi, siete all'ascolto di Rock FM, la voce della Rock Family. Ancora un saluto a chi sta chattando su rockfamily.it e un saluto a chi sta scrivendo invece messaggi a Edo Chiocciola Radio Rock FM, scusa, a Edo Chiocciola rockfamily.it, nonché al numero SMS 3351 007777. Allora c'è gente che scrive: andiamo a prendere Brian May e facciamoli comprare Rock FM, caro Marco da Pisa, bastasse solo questo. A parte che, voglio dire, gli scriviamo un'email, voglio dire, alla peggio, così in extremis, così a 20 giorni dalla chiusura ti salta fuori Brian May, che magari viene fuori e dice: cacchio, non sono riuscito a salvare Planet Rock in Inghilterra, ma magari riesco a salvare Rock FM. Ora, porca miseria, lo chiamiamo, dai. Poi un saluto a Don Fefo, al Monsignor Don Fefo, che insomma scrive una bella preghiera per Rock FM. Poi un saluto ad Andre che dice: ciao Edo, purtroppo un Brian May in Italia non ce l'abbiamo, la solita sfiga, che ti devo dire Andre. Un saluto anche a Simona, un saluto ad Antlon, al quale va il mio applauso naturalmente, perché grazie a Antlon abbiamo potuto aprire il nostro www.rockfamily.it. Dice: raccontaci tutto, sono in ufficio che mi rompo con sto lavoraccio, chiedo roba energetica, ma spero che ti arrivi. La prossima è una ballata, però sono di quelle ballate che alla fine ci stanno dentro, insomma. Poi un saluto a Jacqueline che dice: io c'ero a Russi, meno male, grazie, mi fa veramente molto piacere. Stiamo, chi lo sa se stiamo programmando di ritornare giù, anche per il fatto che come scrivono anche altri ascoltatori, noi non sappiamo ancora esattamente cosa succederà alla Rock FM Stars Band una volta terminato questo farewell tour. Sicuramente dovremo riparlarne un attimo. Qua attenzione, perché mi arriva in supporto il fratello Mox. È semplice, si ribattezza Rock Family All Stars Band e si va avanti. Benissimo, allora Mox ha già deciso assolutamente cosa sarà del futuro, quindi questo farewell tour non ha senso, hai rovinato la festa, domani non verrà nessuno perché diranno: li rivedo domani in un localino sotto casa mia. No, è il farewell tour della Rock FM Stars Band. Esatto, poi saremo diversi, non te la stai cavando, ciao Mox, grazie per il supporto. Faccio crescere la barba, insomma invento qualcosa. Diventi un po' Bill Ward, così almeno non ti fermi durante i pezzi. Bene, allora continuate a scrivere, tra poco verrò a rispondere ai vostri messaggi. 335-100-77-77 oppure edo@rockfamily.it. Ora c'è una vecchia ballata dei Far House, si chiama When I Look Into Your Eyes, da Rock FM. Mamma. FM. Destination Street, questi sono i Cure. Ah, mamma mia, sono in ritardo, mamma. Volevo rispondere a un paio di messaggi, vabbè, sposto tutto dopo. Eh sì, mi stanno guardando male dall'altra parte, dagli uffici. Comunque, il tempo di ricordarvi che siete ascolto di Rock FM, la voce della Rock Family. Vi ricordo www.rockfamily.it, nonché edo@rockfamily.it, nonché la linea sms 335 100 77 77. Guarda, tempo i Talking Heads e vengo immediatamente a rispondere a tutti i vostri messaggi. A dopo.